Blu Radio Sera. 21:11 minuti, bentrovati su Blu Radio Veneto, all'ascolto siete delle voci di Sergio Bortolami e Maurizio Calzavara. Ciao Maurizio. Buonasera Sergio, grazie di aver partecipato anche questo martedì a questo specialino che facciamo. Ma perché sennò tu non riesci ad andare in onda senza di me. Esattamente. Esattamente. Un'altra chiacchierata delle nostre nel corso dei martedì sera con grandi e non della musica, soprattutto italiana. Maurizio, questa sera abbiamo... È un grande veramente della musica italiana. Buonasera Gino, ci sei? Oi, salve ragazzi. Gino Santercole. Gino Santercole, come stai Gino? Bene, bene, sono rinato. Bene, bene, bene, benissimo. anche perché ieri era anche il mio onomastico. Ah, è vero, è vero. Quindi auguri allora. Comincia bene l'estate. Comincia benissimo. E finalmente anche il tempo si è sistemato, quindi... Sì, no, comincia bene l'estate. Ho comprato il cappottino, l'ombrello e la sciarpa. In effetti purtroppo è così, ma dicono fra qualche giorno si sistema tutto. Pareva novembre. Pareva novembre, esatto. Gino, innanzitutto siamo felicissimi di averti al microfono, perché dobbiamo parlare del tuo nuovo disco. Dopo quanti anni, Gino? Beh, diciamo che no, io ho fatto un disco 6-7 anni fa praticamente. Che però non ha avuto, perché è distribuito male, però è stato un bel disco perché avevo messo tutti i pezzi che io ho scritto per lo Zione, lo Zione Adrianone, certo. E avevo così fatto questo disco perché così le ho cantate io le mie canzoni che ho scritto nella mia vita. Certamente. Però insomma non è andato bene perché non l'ho distribuito bene. E niente, questo qui è uscito con la Sony. Con la Sony. Pare che sia più interessante, anche perché la Sony è una delle più grosse case del mondo. Certo. È nato un po' per caso, perché andando a Venezia a ristrutturare il film di Yuppidu, ho conosciuto quelli della Sony e ho detto, ma lei è ancora vivo, ancora vivo. E allora niente, senza, sono qui. E allora niente, abbiamo fatto, stabilito, e abbiamo fatto questo disco che io sono molto felice, perché forse ecco, non mi aspettavo più che una casa così grossa si fosse interessata a me, anche diciamo... cioè voglio dire, nel clan è stato bello, però poi succede, sai come succede nella vita, succede sempre qualcuno rompere un po' le scatole, per cui io poi sono stato costretto ad abbandonare un po' così, mi era passata un po' la voglia, perché poi è difficile per un artista, almeno come mi sento io, che non è che ho voglia di fare i soldi, ho voglia di fare la musica, certo. Che è diverso, e per cui sai, invece questi qui adesso... c'è stato un periodo, ancora oggi credo, che non guardano più se la cosa è bella o brutta, basta che questo qui va nudo in Piazza Navona e diventa famoso. Questo è vero, ma quanto dura Gino? Dura una stagione e poi sparisce? Come dici? Dura una stagione e poi sparisce però? Sì, ma nel senso che non c'è più... Tutti oggi possono cantare, fare gli attori, lo dimostrano, no? Tu la televisione cosa vedi? Il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, con altro qui, io mica posso fare queste cose, io sono nato innanzitutto per star bene e essere felice, e per essere felice vorrei fare il musicista. Sei della vecchia scuola. L'ho fatto per tanti anni, con buoni risultati, devo dire. Cioè, avevi sempre la Fender Trotcaster vicino, Gino, dobbiamo dirlo, sei un pioniere del rock and roll in Italia. E io sono stato uno dei primi, anzi, il primo senz'altro al nord ad avere la prima Fender in Italia. Appunto. A Roma c'era Enrico Ciacci, che ce l'aveva anche lui, però eravamo in due, voglio dire. E poi comunque io ho amato il rock and roll, poi dopo ho scoperto la musica nera, Ray Charles, Stevie Wonder, tutti i cantanti del mondo. Anche per quello io poi ho cominciato a scrivere, e se tu noti ogni canzone ha un po' uno stile diverso dall'altro. Tu guardi, Mezzanotte sai che io ti penserò, poi c'è Salutations, cioè, certo, verissimo questo. Non so, quanti belli colori in quella nuvola, cioè sono tutte canzoni molto diverse, straordinariamente, per esempio un pezzo che io avevo scritto per Mina, e cioè voglio dire che io ho dimostrato di saper fare la musica, però purtroppo qui oggi vendono le patate come vendere i cantanti, uguale. Io, dato che non mi sento una patata, anzi le patate le mangio, mi piacciono. Avevi fatto parte dei Ribelli, che era il gruppo accompagnatore di Celentano, ma c'era del blues nei Ribelli, c'era molto blues. i ribelli sono stati, diciamo, a parte che Adriano fece il primo Fest Rock and Roll dove c'era Iannacci, Sconosciuto, altri personaggi, però dopo fu proibito in Italia, no, il rock and roll. E per cui Adriano rimase, andava a fare le seratine così, e io avevo appena imparato a suonare la chitarra, perché lui voleva sempre che stessi con lui, Ragino, perché noi siamo, sai che lui è fratello di mia mamma, sì. E per cui lui a 2 anni era già zio, era già mio zio, e per cui siamo cresciuti come 2 fratellini, poi abbiamo fatto sempre le cose tutte assieme. Nella mitica via Glug. Dopo il Festival del Rock a Milano, sì. Io sono stato il suo primo chitarrista, uh-huh. Dopo è arrivato Gianni Dall'Aglio, il batterista che c'è sempre lui ancora, e poi c'è, e insomma sono nati i ribelli, abbiamo fatto, poi è nato il clan, insomma tante cose, così. Diciamo che questa è un po' la mia, in sintesi, la mia carriera, ecco. Poi ho fatto cinema, ho fatto l'attore, ho lavorato con Germi, Monicelli, Scola, Montalbo, insomma ho fatto... E tu hai fatto tanto cinema, molto interessante. Nel sottofondo c'è una cosa che ti riguarda. Prova a sentire un secondo, è Gino. Sta finendo. Sì. Te la ricordi, Gino, questa? Questo qui è praticamente... Sai perché io ho inciso questo vecchio dimmelo, battuto? Perché è molto interessante la canzone pacifista strepitosa di Barry Maguire. Barry Maguire, diciamo, quando Mogol, che aveva in mano questo disco americano, perché Mogol era sempre uno che aveva sempre le cose più in anteprima, l'aveva proposta a Celentano, no? E allora Adriano, quando sentì questo cantante, diceva: ma questo qui sembra Gino Sant'Ercole. Infatti io ho la voce uguale alla sua. È vero? Perché almeno all'epoca, e infatti Adriano non la vuole incidere, io non la incido perché se la dai a Gino, beh, se no io non la faccio. Allora lui cosa fece Mogol? Voleva darla a Mino Ritano, che non c'entrava proprio niente. Mino Ritano disse: no, per me non va bene sto pezzo. Poi andò da Battisti, che era proprio sconosciuto, e Battisti disse anche lui: ma questo qui sembra Gino Sant'Ercole, che me lo raccontò, perché Battisti lo incontrò una volta, me lo raccontò questa cosa. E niente, alla fine questo qui me lo diede proprio dalla disperazione, neanche dice: ah, lo do a Sant'Ercole. No, perché dice: chi è che la può cantare? Non vuole cantare nessuno, allora la cantai io. L'hai cantato però, benissimo, non c'è niente da dire. Una cosa, anche... beh, Adriano poi la ricantò un po' molti Adriano anni dopo nel famoso spettacolo con Ligabue. Adriano fece 2 pezzi, questa e Sono un fallito, erano 2 pezzi miei che avevo cantato io. Certo. E poi dopo la fece con Ligabue, che mi dispiacque molto, perché non è possibile che, caro, sai che io ho fatto sto pezzo, l'ho lanciato, ho avuto anche un buon successo, non puoi chiamare Ligabue. Dovevi chiamare te, chiaramente. E questo è stato, vabbè, io poi l'ho perdonato, perché io, mio zio, lo perdono. Quanto tempo dura? E senti, dimmi. Poi volevo dire, no, nel senso che poi Mogol oltretutto ha cambiato tutto il senso della canzone, perché certo. Le parole sono, non c'entra niente con quelle lì che diceva Barry Maguire, la guerra, il Vietnam, pacifista, le bombe, la distruzione, insomma i casini. Qui era invece uno che tradisce l'amico e va con la moglie, e tu credi questo vecchio pazzo mondo, ma cosa c'entra? Non c'entra niente. Che poi sia un testo carino, vabbè, però col testo originale non ha niente a che vedere. Ma, Gino, però, Mogol spesso e volentieri cambiava i testi dei pezzi, però. Cosa ma dici? Sì, ma Mogol era anche furbetto, secondo me. Anzi, io devo dire che, conoscendo bene Bob Dylan, cioè conoscendolo musicalmente, certo, trovo che lui ha copiato moltissimo nei testi con Battisti, e il modo di scrivere i testi nell'era così, nel 60 così, quell'epoca lì. Ma erano tutte idee che aveva preso un po' da Bob Dylan, da Donovan, a questi cantanti un po' che avevano un po' cantavano le canzoni in un modo diverso, le parole erano diverse, per cui Mogol aveva preso quello stile lì. Capito? Certo, facciamo una cosa, Gino, cominciamo questa bella cavalcata che poi arriverà alla fine parlando del disco nuovo col pezzo, sì, Questo vecchio va pazzo mondo, che tu hai inciso, sì, all'epoca, ok? Sentiamola. Blu Radio Sera. piangere mai più, che questo mondo non è stato mai rotondo. Tu carichi il fucile di chi ti spara e dopo piangi se la vita è troppo amara. E tu sei convinto ancora che lei ti amava. Dimmi, dimmi. Mondo. Tu credevi in lei quasi ciecamente e credevi in me che ero il tuo amico. Ora piangi perché lei ti ha tradito con me e mi domandi perché, e mi domandi perché. Tu sei troppo buono, sai, per dei tipi come noi. Dimmi, dimmi. Mondo. E amico, perché tu non rispondi niente e guardi me così umilmente? Perché ora dovrei avere dei rimorsi se in questa vita ognuno riesce ad odiarsi e mai nessuno mai impara ad amare e tanto meno poi a perdonare. Amico mio caro, dimmi perché, dimmi, dimmi come, come, come fai a dire che tu credi in questo vecchio pazzo mondo. Perché negli occhi tuoi c'è ancora amore, dopo così tanto, tanto dolore. Perché ti senti forte e ci perdoni, invece di trattarci come due cani. E se hai ragione tu, insegnaci ad amare, a credere di più nel mondo e nel domani. Insegnaci a soffrire, perché voglio sentirti dire. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Maurizio, riprendiamo con Gino. Gino, Gino, ci sei? Allora, che voce che avevo, che bellissima, Gino. Voglio chiederti una cosa fondamentale. Grandioso. Chi l'ha fatto l'arrangiamento di questo pezzo? L'arrangiamento l'ha fatto Detto Mariano, che era uno del clan. Esattamente. Il copertino del disco c'erano le cinque facce. Adriano, Don Bacchi, io, Detto Mariano e Michele del Prete. Perfetto. E i ribelli. Scusami Gino, che cosa era il clan? Era una comune musicale? Era al di là, andava al di là di questo? Ma no, una comune. Un comune nel senso musicale, cioè vi scambiavate le idee, le impressioni, eccetera. Ma certo, certo. No, innanzitutto grazie ad Adriano, che lui ebbe l'idea di fare questa cosa che era un po' un rifacimento della nostra famiglia, perché la nostra famiglia Celentano e Sant'Ercole, che siamo tutti meridionali, certo, era un po' così portata verso la musica, beh, non è che erano professionisti, amavano cantare, suonare nel cortile di Via Gluck, certo. Per cui il clan è nato un po' perché Adriano aveva l'idea, credo, più che altro di fare tipo come ha fatto Sinatra, che aveva il clan con Dean Martin, Jamie Davis e tutti questi qua. E allora lui, quando prese noi, a parte che io stavo già con lui, per cui ero già lì, ma Don Bacchi, Ricky Gianco, i ribelli, quelli, non era nessuno. E lui ha preso delle gente sconosciuta e le ha fatte diventare famosi. E poi questo doveva essere il clan, perché poi avevamo l'idea di cantare canzoni, scrivere canzoni, fare dei film, fare delle cose, e questo qui doveva essere poi, cioè, giocare divertendosi, facendo musica, facendo film e facendo quello che poi in realtà abbiamo fatto, insomma, finché è durato si siamo divertiti, abbiamo fatto delle belle cose, e questo doveva essere il clan. Poi dopo, sai, ognuno c'ha la sua strada, c'ha la sua autostrada, la sua macchina, e va e prende un'altra strada. Certo, dobbiamo ricordare che nel clan passò anche un certo Lucio Battisti, no? No, non è che passò. No, passò di sfuggita. Ma no, lì praticamente il clan era tipo un negozio, un bar, perché lì, tutti volevano entrare nel clan. Però Adriano diceva, il clan siamo noi, perché siamo così, siamo nati noi, anche Morandi, che ne so... Ma io tessuto Leali, anche Fausto Leali, Albano, sì, certo. Erano tutti passati di lì, però Adriano non voleva far entrare più nessuno, perché dice, siamo noi e basta. Ah, okay. Io voglio avere 5 figli e sono i miei 5, ma non voglio più di figli. Ho capito. E come, come sono i ribelli portavano in giro il Celentano, ma qual era il clima quando sono andate all'epoca, eravate in concerto? Ma il clima era sempre così, noi scherzavamo, ridevamo sempre, giocavamo, sfasciavamo gli alberghi, andavamo, ci buttavano fuori dappertutto, perché eravamo troppo casinisti, perché ci divertivamo così tanto. Penso che una volta c'era la lotta, perché erano due fazioni, eravamo io, Adriano, Michele Del Prete, adesso non mi ricordo se c'era Gianni Dall'Aglio, così, e poi c'era Don Bacchi, il suo complesso, insomma eravamo due fazioni, per cui ci facevamo gli scherzi negli alberghi, allora noi contro Don Bach e Don Bach contro di noi. Allora una volta noi abbiamo distrutto la camera, Don Bach ci distrusse la nostra camera. Allora noi cosa facemmo? Prendemmo Don Bach aveva un MG bellissimo appena di zecca, e noi gli smontammo tutte le ruote e le spedimmo, eravamo in Liguria, non mi ricordo dove, sia Lassio, che, e le spedimmo a Reggio Calabria. Cioè, ma eravate dei delinquenti. C'è proprio una roba così. Allora lui dovette partire con detto Mariano, andare fino a Reggio Calabria a portarsi indietro le ruote. Incredibile. E poi succedevano dei casini. Poi a Roma andavamo negli alberghi di prima categoria, bellissimi alberghi. Mi ricordo una sera bagnarci i gavettoni. Allora eravamo comunicanti con le camere. E allora per spostare, per non far entrare dalla porta, se no ci facevano, abbiamo spostato un mobile per cercare di metterlo davanti alla porta, se no che è caduto il marmo che stava sopra, che era un marmo antico. Per cui il giorno dopo quello lì è venuto, il direttore fa, signor Celentano, guardi, noi veramente desideriamo che lei non venga più in questa alberga. Per cui eravamo veramente come dei forsennati, che ne so, ribelli, senza remore, ma noi lo facevamo perché ci divertivamo. Però invece poi danneggiavamo gli alberghi, davamo fastidio ai clienti, insomma eravamo un po' incasinati, però guarda, noi ci divertivamo molto. Ma eravate degli eccellenti musicisti anche. Sì, poi dopo abbiamo scritto belle canzoni, abbiamo fatto dei film, insomma. Però quando andavamo lì, dopo ci siamo calmati, perché sai, quando hai 25 anni, allora sei ancora così, ti diverti un po' come l'oratorio, come, non so, quando vai in vacanza, vai il Boy Scout. Però dopo a un certo punto, insomma, uno si è sposato, l'altro si è sposato, cominciavamo ad essere un po' più responsabili. Messa la testa a posto. Sì, un po' più. Un pochino, almeno un pochino. cominciare a avere dei figli, insomma, e poi la vita continua, no? Però ecco, devo dire che sono stati quei 5-6 anni che veramente eravamo proprio scalmanati, proprio il rock and roll ci aveva un po' cambiato proprio il sangue, il cervello, i movimenti, insomma il rock and roll per me, per tutti, credo non solo noi, tutto il mondo ha avuto un grande influenza sui giovani, no? Perché tutti i giovani si sono sentiti liberi di ballare, cantare, far casino, spaccare i negozi, andare al cinema. Era forse, alcuni hanno esagerato, perché poi sono nati i Teddy Boys, sono nati gli violenti, invece no, noi eravamo dei poveri disgraziati che si divertivano magari a rovinare qualche camera d'albergo, ma tutto lì, insomma, tutto, cioè, lì. Ma è una cosa da niente, insomma. Cioè. Ma c'è stato un periodo che hanno proibito il rock in Italia, per o no? Sì, quando Adriano fece il Festival Rock and Roll nel 57, dove Bruno Senna, che era un grande ballerino di Boogie Boogie, che era anche poi tra l'altro stato a Lascia la Doppia con Mai Buongiorno, era famoso soprattutto perché era stato un concorrente di Lascia la Doppia, organizzò questo festival dove chiamò tutti quelli di rock and roll, cioè rock and roll c'era nessuno, c'era solo Adriano, con i Rock Boys dove c'era Iannacci, Sacchetti, i Tre Fratelli, insomma i Cerutti che poi venne nel Clan. E niente, mi successe un casino che arrivò talmente alla folla che impazzita che la polizia si spaventò e che non fece entrare più nessuno, poi dopo di colpo, dato che questi stavano facendo più casino fuori che dentro, allora ne ho fatti entrare tutti. E da questa cosa il Cardinal Montini proibì proprio il rock and roll, portare i blue jeans e il rock and roll. Ah. E per cui ci fu un anno che non si poteva suonare rock and roll. Noi vabbè, andavamo in giro nei paesini, chi è che ci controllava? Però certo, se facevi uno spettacolo a Milano, Roma, Napoli, nei grandi teatri, veniva la polizia, ci arrestavano. Eravate banditi praticamente. eravamo guardati a vista. E poi dopo invece è passata questa cosa, abbiamo continuato, vabbè, poi rock and roll è un po' svanito, abbiamo cominciato a fare canzoni un po' di tutti i tipi, no? Da Carezza in un pugno. Ecco, fermiamoci un momento in Carezza in un pugno, che è un pezzo che tu hai scritto e poi ha cantato Adriano. Com'è nata l'idea, Gino? Ma l'idea è nata perché io poi ho scoperto che non c'era solo rock and roll, c'erano Frank Sinatra, Dean Martin, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, non so, c'erano un sacco di cantanti, autori come Cole Porter, come Gershwin, come Jerome Kern, insomma, ho scoperto che c'erano anche altre cose, non solo il rock and roll. Per cui da lì ho cominciato ad ascoltarmi tutti questi grandi compositori e interpreti, e da lì cominciai a scrivere canzoni. Allora disse, adesso voglio provare a scrivere un pezzo bello, tipo, non so, Stranger in the Night. Allora così cominciai, mi nacque questa canzone, così, che fu come un dono di Gesù, perché devo dire che anch'io oggi, dopo tanti anni, sento proprio la gente che è innamorata di questa canzone, innamorata di chi l'ha scritta, e questa cosa mi fa veramente un grande piacere. E così poi ho continuato a scrivere altri pezzi, ne ho fatti tantissimi, colonne sonore. Certo, dopo parliamo anche dei tuoi film, delle tante partecipazioni che hai avuto nei film. Adesso sì, ci fermiamo e sentiamo questo pezzo che tu hai scritto e poi ha portato al successo anche Adriano. Sì. Blu Radio Sera. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo. Così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, ed dal pugno chiuso una carezza nasce la la la la la la la la la la la. Mezzanotte tre, stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza. Nasce la la la la la. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora Maurizio, prima di riprendere la nostra chiacchierata con Gino Santercole, salutiamo Roby Zonka, te lo ricorderai. Certamente, ha fatto un concerto straordinario. Nei nostri studi, tra l'altro. E si è fatto sentire qui in radio e dice che si ricorda di Sono un fallito, sentendo la nostra intervista a Gino Santercole, e si ricorda anche del coro che dice Nessuno crede in me, si ricorda piacevolmente insomma quella canzone. Gino! Ehi! Ci sei? Nessuno crede in me, invece non era vero. Anzi, ci credevano troppo, perché secondo me dice questo qui è troppo forte, è meglio che non canta più. No, ti hanno escluso. No, Gino, devo dire che sono sempre stato un po' penalizzato per la parentela, perché poi sai com'è, i figli, i nipoti, però io, dato che avevo un cognome diverso, perché dovevano dire che io ero Santercole e lui era Celentano. Certo. Che poi eravamo, e poi dopo devo dire che io non è che ho fatto delle cose così, comunque fatto delle cose dignitose, insomma, che hanno avuto successo, e diciamo che in questo non sono stato riconosciuto abbastanza, ma non dal pubblico. Il pubblico, io con Facebook per esempio, che è da poco che ho questa cosa, ho delle cose che non ho mai avuto nella mia vita, cioè delle soddisfazioni e delle gratificazioni che non mi sono mai capitate. Voglio dire che effettivamente il pubblico non c'entra niente, chi c'entra sono quelli della radio, quelli della televisione, adesso non so voi, anzi voi siete molto gentili che mi state facendo, dedicando questo tempo, però voglio dire che i giornali, i critici, perché tutti credono di essere i più forti di tutti, vi hanno sempre un po' ostacolato, no? Certo, ho capito. Però io sono, la mia strada va avanti, continua, ogni tanto riprende, insomma io sono ancora qua. Decisamente. Gino, come succedeva il discorso del clan? Chi sceglieva? Cioè, tu scrivevi un pezzo, questo è un pezzo per te Adriano, un pezzo non so, per Ricky Giacomo, un pezzo per Gino Santercole, com'era l'economia? No, perché ognuno poi scriveva i pezzi, tutti abbiamo scritto i pezzi nostri, Adriano anche ha scritto i suoi. Io ne ho scritti molti di più di Adriano, perché poi quasi tutti sono miei, poi dopo qualcuno, tipo, ecco, uno di Ricky Gianco, uno di Don Bacchi, però poi dopo alla fine chi dava i pezzi a lui ero io, poi dopo Quattugno gli ha dato anche lui qualcuno, niente, poi ognuno si scriveva i pezzi, li ascoltavamo e poi ne incidevamo e via di seguito, insomma non è che poi ormai avevamo diciamo, l'esperienza, il modo di incidere. Poi avevamo anche un bravo arrangiatore come Mariano, che era anche lui all'altezza, si era adeguato un po' a tutto il nostro modo di scrivere, perché lui anche lui non è che era uno che aveva mai fatto arrangiamenti, ha cominciato con il slam e devo dire che ha fatto delle cose proprio belle, devo dire, no? Certamente, certamente. Ma il clan era una fucina di idee, possiamo dire questo? Ma sì, ma logico, perché, sai, essendo tanti che sapevano muoversi in quest'ambito della musica, è logico che poi ognuno aveva la sua personalità, come l'avevo io, Don Bacchi, Ricky Zanco, i Ribelli, la ragazza del clan, tutti. La mitica avevano... ragazza del clan. La ragazza del clan, poverina. Ci racconti un episodio, raccontaci un momento l'episodio della famosa ragazza del clan. Ma la famosa ragazza del clan nacque perché lei era una molto appassionata di musica, infatti era una che quando noi facevamo le canzoni era una che ci dava proprio anche dei suoi giudizi, che erano anche tra l'altro molto interessanti e anche molto di avanguardia, perché poi era una che le piaceva la musica, aveva tutti i dischi migliori, le novità, per cui anche lei ci dava dei consigli, ah guarda c'è un pezzo così, c'è un pezzo così, cioè, e poi dopo lei, quando Adriano la lasciò purtroppo, rimase, allora Adriano, per fare cercare di rimediare a questa cosa, dice, inventò sto fatto, dico, ma perché non canti, magari sai, poi che ti diverti, che... e dice, no, ma io non sono capace, non ho vergogna, non voleva stare fare sto lavoro, ma dice, vabbè, allora facciamo una cosa, facciamo finta che diciamo che tu non sei, non si sa chi sei, e niente, facciamo il disco e poi dopo vediamo. E così successe, dopo invece era l'ora che tutti chiedevano, ma chi è che può dare anche il disco, chi sarà la ragazza, sì, del clan, esatto. E dopo lei fu costretta ad apparire, però non aveva l'esperienza, cominciò a fare le serate con noi, però piano piano non se la sentiva lei di fare la cantante, poi dopo ha smesso e poi si sposò con Fausto Leali, esatto, sì. E si fu a formare la sua famiglia. Ma voi le serate anche al di là di Celentano, come Ribelli oppure? E ognuno faceva la sua serata, cioè prima quando Adriano andava a militare tutto il clan era insieme e facevamo gli spettacoli tutti assieme, certo. Noi lo chiamavamo lo spettacolino perché c'eravamo tutti tranne Adriano, per cui senza Adriano era uno spettacolino, se c'era Adriano era un successone, uno spettacolone, però nonostante ciò avevamo il nostro successo, abbiamo girato tutta l'Italia, siamo venuti in Veneto, in tutte le regioni italiane, dalla Sicilia alla Sardegna, alla Puglia, dappertutto, insomma, abbiamo fatto un sacco di serate senza Adriano, poi dopo quando Adriano è tornato abbiamo ripreso con lui e poi dopo insomma siamo andati avanti, poi ognuno ha fatto i suoi dischi, le sue canzoni, poi dopo il clan poi a un certo punto ha dovuto chiudere per ragioni che tutti ormai sanno, no? Era una casa discografica, la prima casa discografica indipendente, Gino, possiamo dire questo? Certo, Adriano aveva costruito questo clan che era distribuito dalla CGD. La CGD, esatto. Poi dopo invece cominciò ad avere invece la sua distribuzione e il clan era autonomo, facevamo tutto, i dischi, avevamo distribuzione, per cui avevamo tutto, non avevamo più bisogno di nessuno, perché era un nome che attirava e funzionava bene, no? Certo, certo. Una cosa... Parliamo un momento di una cosa molto interessante, i tuoi tanti film. Non soltanto quelli con Adriano, anche altri film. Beh, io con Adriano ho fatto Super Rapina Milano, è stato il primo che eravamo tutti quelli del clan, abbiamo anche lì giocato, ci siamo divertiti a fare gli attori, ma eravamo anche lì principianti. Però insomma, il filmettino che è andato così. Poi dopo, io invece poi ho fatto altri film senza Adriano, perché mi chiamavano, perché poi avevo un mio agente, e ho lavorato un po' con tutti i registi migliori dell'epoca, da Germi, Scola, Dino Risi, Monicelli, Comencini, Montaldo, Vancini, insomma ho fatto molti film. Poi dopo con Adriano ho fatto Mani di Velluto con Eleonora Giorgi, e poi Yuppidù, diciamo che Yuppidù è stato quello che dopo un periodo abbastanza lungo di assenza dalla musica e dal cinema, Yuppidu mi ha ripreso un po', dove poi ho cantato questa mia canzone in inglese, che era stata fatta apposta perché Adriano voleva le canzoni in inglese, perché poi le voleva mandare il film in America, tanto è vero che non uscì mai la cassetta del film, non c'era, non si trovava. E invece l'anno scorso è successo che a Venezia lui ha riproposto il film, e dall'anno scorso c'è il DVD, si vede il film, cioè lo vedono tutti, su Skype lo danno quasi ogni giorno, e così è dato, capito? Bellissimo. Una cosa, volevo solo ritornare un passo indietro, dopo parliamo di Yuppidu e quel pezzo meraviglioso che tu hai scritto. Sì. E c'era un altro colonna sonora che è piaciuta molto al fratello di Frizzi, l'arrangiatore. Beh, lui ha fatto con me l'arrangiatore. Sogni particolari, bellissimo, è quello, vero? Sì, Sogni particolari, sì, particolari bellissimo. Io ho scritto le musiche e lui ha fatto gli arrangiamenti, ha dirigito l'orchestra. E diciamo che il film ha avuto meno successo delle musiche, infatti io dopo quel film lì, che ha avuto le critiche sul film che diceva che non era un gran film, però le musiche erano bellissime, infatti esatto. Da lì non ho fatto più musiche per colonne sonore di Adriano. Basta, ha detto basta, se no poi oscuravo i suoi film. No, poi dopo lui ha fatto altri film, anzi ne ha fatti tanti, ha avuto molto successo con la Muti, insomma ne ha fatti tanti poi, no? Certo, ma le colonne sonore che tu ti inventavi, davi le colonne sonore a Celentano e poi il film andava. Sì, no, noi facevamo i pezzi, poi li facevamo sentire i brani che andavano in questa scena, in quell'altra, così, e lui diceva bene, poi insomma dopo abbiamo messo la musica approvata da lui, che insomma diceva che era anche piaceva, insomma, no? Certo, adesso ritorniamo un momento a Yuppidu, questo straordinario pezzo che tu hai scritto in inglese. Such a Cool Night Tonight. Che bello, è bellissimo, adesso lo abbiamo, poi lo sentiamo. L'idea come è nata, come si è sviluppata? Ma quello lì è un pezzo che io avevo scritto prima, molto prima di fare il film. E io lo cantavo così, l'avevo proposto per la Vanoni, l'avevo messo così un po'. E però era rimasto lì. Poi una sera cantando a Venezia, sì, il film era già finito, Yuppidu, e io eravamo in un locale con gli amici miei lì del film, e mentre cantavo sto pezzo entrò Adriano casualmente in questa night e sentì il pezzo e disse: cavolo, bello sto pezzo, sai? E no, si pensò un attimo e disse: ma sai che io sto pensando che potrebbe andare bene nel film. Dico: ma il film non abbiamo finito. E beh, fa niente, se il pezzo è bello lo rifacciamo una scena. Lui aveva in mente di fare una scena d'amore che non aveva messo, e forse ha pensato che quella canzone andasse bene per commentare un po' quella scena. E infatti fu così che io scrissi poi con mia moglie Melù, che scrisse il testo in italiano, traducendolo in inglese, e lui piacque molto, e così andò in questo film, che cioè girammo la scena apposta in più, perché era già, il film era già finito, era chiuso, invece abbiamo rigirato la scena, e poi dopo è nata questa cosa che secondo me è molto bello, la scena che lui canta, poi va sul ponticello che piove, insomma dà praticamente la casa al suo amico, per far sì che lui con la sua ex moglie riesce a passare una notte, e che infatti dice: ma che freddo stasera, perché insomma tu sì, vai adesso, avrai questo rapporto con tua moglie, poi questa qui sai che ti lascia, ti ha lasciato, è tornata solo per avere una notte così che finisce lì, e insomma è inutile che ti illudi, no? E per cui questa era un po' la storia in inglese, che poi magari tanti non hanno capita, però poi l'ha incisa anche Adriano questo pezzo, e l'ha messa in un disco dance, che poi l'ha un po' snaturata, perché insomma non era l'arrangiamento, secondo me non era adatto quell'arrangiamento, però l'ha fatto anche lui in italiano, per cui se uno vuole andare a sentire e capire cos'era quella in inglese, sente quella di Adriano, capisce tutto. Sì, però noi scegliamo quella tua in inglese, adesso la sentiamo, è bellissima. Blu Radio Sera. Such a cold night tonight. Bill Frizzy, long night, with the memories of old times. She came back to your bed, and for final time, you made great love to her. I've looked deep in your eyes, and I've seen you have changed. You pretend that's your life in a rising of sun. Your love is a fog that soon it will be gone. Thoughts are all about me tonight, and such a night never reached an end. I feel I go crazy, you know, a lot of foolish and empty words I say, and it'll make no sense, and you will be alone. While so softly you're sleeping, still so close to her pillow, that has kept all her scent floating still in the air. I know it so well, yours is a really great love. Such a night should have an end, so the agony for foolish loves and the rise of a new clear day. We laugh at your strong and empty hands filled up with dreams, but dreams filled up with dreams, illusions. When you'll open your eyes, you'll see nobody else but you between the sheets. She will never be back again, and you for sure will never hear from her. It's hard to take, I know it, it's all over now. Forever, it's hard to take, I know it, it's all over now, forever. Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Con noi questa sera Gino Santercole. Gino, ma oia, con questa voce, quante ne hai fatte innamorare? Mamma mia, che roba. Dobbiamo fare un sondaggio. Senti, io ti proporrei una cosa. Sì. Dato che io sono tra l'altro qui in uno studio legale che stanno chiudendo, mi piacerebbe fare un'altra puntata. Così cantiamo anche magari le canzoni nuove, le cose di più. Sì, recenti. Sì, ma se l'idea mia è di fare sentire subito un pezzo nuovo, se vuoi. Facciamo quella lì, nessuno è solo. Sì, certo, certo. Se voi volete, io posso, non so, quando volete. Facciamo un'altra puntata, benissimo, noi siamo perfettamente d'accordo, così parliamo ancora, parliamo dei pezzi vecchi e mettiamo altri pezzi nuovi. Come no. Andiamo adesso, subito allora a parlare del nuovo disco. Io questi proporrei questo. Dimmi. Qui, nessuno è solo, che è uscito da 15-20 giorni, un pezzo, un disco di 7 pezzi, sì, che sono 7 pezzi molto belli. Questo Nessuno è solo, diciamo che sono pezzi che io ho scritto durante la mia vita, non sono pezzi nuovi, nel senso che li ho scritti adesso, però sono pezzi inediti, per cui ci sono... anzi, io metterei, ascoltiamo questo pezzo e poi la prossima volta io così vi parlerò anche un po', sono un po' più rilassato perché oggi ho avuto una giornata anche un po' abbastanza. Va bene, facciamo così. Cioè, benissimo, okay. Gino, io allora ti salutiamo con questo, con la title track, ti va bene allora? Sì, quando mi fai sapere tu, quando io sarei molto felice perché poi amo il Veneto, amo la grappa, mi piacciono le benissimo, benissimo. Allora. E passa anche nei nostri studi a suonare passa qualcosa. Qua, no, non c'è problema. Se, come no, se io passo verrei volentieri. Comunque non si sa mai, vediamoci, intanto prendiamo un appuntamento per la prossima puntata perché vorrei così stare un po' con sti osti veneti, so. Benissimo, noi ti salutiamo e ti ringraziamo moltissimo, allora facciamo sentire il pezzo che dà sì. titolo al nuovo disco di Gino Santerco. Nessuno è solo, mai. Perfetto, grazie, grazie. Gino. Ciao a tutti. Ciao, ragazzi. Grazie Gino, ciao, ciao. Ciao. Cartello sul rasoio muoio, non valgo più, amici non vivo più. La vita non l'ho avuta in mano mai, soltanto guai e sono vinto oramai. La notte non ci dormo più, ho il cuore che mi va su e giù. Il giorno è un ballo folle e tragico e il tempo non mi basta più. Sono proprio giù, sono proprio giù, sono proprio giù. C'è un cartello sul mio cuore, amore, non credo più, amici non sogno più. È stata lei un calcio in più per farmi andare ancora giù. Aveva il viso d'angelo e nel suo cuore un pendolo. Il giorno era un ballo fallico e il tempo non passava mai. Amavo solo lei, amavo solo lei, amavo solo lei. Nessuno è solo mai. Se resta solo, nessuno è solo sotto il cielo mai. Nessuno è solo mai, se resta solo, mai più vicino a sé. Stanza speranza, sorridi già, la gente ti sorriderà. La vita non l'avremo in mano mai, ma neanche lei ci deve stritolare mai. Se un amore muore c'è un altro che aspetta te. Il giorno troverà il suo fascino e il tempo tornerà più blu. Non andare giù, non andare giù, non andare giù. Nessuno è solo mai, se resta solo. Nessuno è solo sotto il cielo mai. Nessuno è solo mai, se resta solo. Mai più vicino a sé. Nessuno è solo mai, se resta solo. Nessuno è solo sotto il cielo mai. Nessuno è solo mai, se resta solo. Mai più vicino a sé. Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21 e 59 minuti. Spot. Il Crest torna su Blu Radio anche nel 2010. In and Out, il tuo Grest in onda in collaborazione con Telechiara. Un viaggio appassionante dentro gli oratori delle vostre parrocchie. Per partecipare, manda una mail a info@telechiara.it entro il 10 luglio. In and Out.